Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, 8-19 minuti, caro Oscar. Eccoci qua, in questa tua regia di passione, perché la Juventus arriva come sempre. Dobbiamo resistere 120 minuti 0-0 e sperare nei rigori. Ma sai, come la triste mietitrice la Juventus. Così. Sa che poi un giorno arriva. Sì, ma infatti... L'ombra inizia a rassegnato, la falce sulle sue spalle. Dicono non c'è due senza tre, ma io sono rassegnato. No, vabbè, ma è il giusto atteggiamento. Così magari invece poi c'è un risultato a sorpresa. No, magari rimango rassegnato. No, vabbè, ma è per esperienza, figura da turinista. Lunga storia. Esatto. Non, è che... non bisogna neanche più sperare contro la Juve. Certe volte è così. Però guarda, oggi è una giornata invece in cui il calendario liturgico ti dà un grande segnale. Oh. Pensaci, perché è un segnale positivo per voi milanisti oggi. Sono convinto quando, sì, sì, quando mi è tornato in mente, perché oggi è il giorno in cui l'impossibile avviene. Oggi è il giorno in cui il cattivo diventa buono, il persecutore diventa invece capo dei perseguitati, perché oggi è la conversione di Saul, meglio noto come Paolo, che da persecutore dei cristiani, mentre sta per entrare a Damasco, tatac, sulla via di Damasco arriva, dice, e quello cade e lui dice: ma tu chi sei? No. Io sono quello che tu perseguiti. Non illudetevi, cari no, però io lo dico apposta. Anzi, per tirare sugli animi, possiamo annunciare che il Milan è uscito dalla Coppa Italia, purtroppo. Va bene. Ma come, io tento di tirare sulla faccenda e tu improvvisamente. Però oltre che la conversione di Saul, cioè Paolo appunto, che poi è colui che ha iniziato la costruzione della chiesa, di cui non c'erano in realtà nel senso organizzativo, cioè i vescovi, i presbiteri, non c'erano segni nei Vangeli, ma ci ha pensato energicamente lui prima di essere decapitato a Roma. E c'è un altro santo che voglio ricordare, però di una grande importanza, perché è stato un grande abate clunacense in Lotaringia, quindi nel territorio dell'impero, nel nord-ovest della Francia, ma dell'impero, infatti era un prediletto dell'imperatore Sant'Enrico II, San Poppone. E questo San Poppone abate a me è sempre piaciuto molto, lo voglio sottolineare. Non sorridere, non so, è un grande abate riformatore. Ma del perché movimento onomatopeico o perché... No, perché San Poppone riformatore, io a volte mi chiedo se l'Italia per stare in piedi non avrebbe bisogno di un San Poppone invece che di tanti papponi. Questa è la mia. Quindi mi è sempre piaciuta questa cosa di San Poppone riformatore, perché a volte, come vedi, la Chiesa è ricca di esempi. Certo, così. Certo. Allora, anche l'Italia di papponi. Appunto, sì, direi proprio di sì. Comunque, io voglio ricordare oggi, purtroppo l'anno 83, l'assassinio del sostituto procuratore a Trapani, Ciaccio Montalto, è stato Riina in persona a commissionarlo, da quanto si sa oramai dalla verità giudiziaria. E tra chi fa gli anni oggi è la giornata di nascita del grandissimo Giorgio Gaber, che poi è morto oramai già da tanti anni, dal 2003, e voglio fare anche gli auguri a Laura Ravetto. Va bene, l'onorevole Ravetto. Allora, a proposito di onorevoli, la politica un po' si impone. No, detto che oggi, cari ascoltatori, grazie anche alla segnalazione ieri dell'ex sindaco di Farindola, abbiamo raggiunto e avremo questo geologo, il professor Leo Adamoli, che è considerato il maggiore esperto di quella zona. E quindi ci chiarirà anche se questo hotel sia stato costruito su una vecchia valanga oppure no, perché l'ex sindaco di Farindola ci diceva: non è vero, non c'è stata alcuna valanga, eccetera. Sentiremo da Leo Adamoli. Però la politica si impone, insomma, tra l'attesa per l'Italicum, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata. Cosa dovrebbe fare, tra l'altro, secondo voi, cari ascoltatori, lasciare, sai che sul Messaggero parlano di questa autosospensione sala alla style sala. Beh, alla sala ha fatto un colpo generale di comunicazione di fronte alla città, è come se l'avessero assolto. Naturalmente non è vero, però io è stato di una grande abilità. Ma sei autosospeso per quanti giorni? 5 giorni? 6 è autosospeso giorni. Creando un istituto che non esiste. A, B, ha ritenuto unilateralmente poi che fosse il caso di rientrare, ma in realtà ha esercitato una pressione fantastica sulla procura, un imbarazzo, perché visto che si è fatto pregare da tutti, torna, comprese le opposizioni, è tornato come se la cosa non lo riguardi. Tutti certe archiviazioni, poi naturalmente la notizia ufficiale della protrazione delle indagini per altri 6 mesi è finita nelle brevi di cronaca. Quindi Sala è stato benissimo. Sì. Tra l'altro c'è un ascoltatore che ci scrive: il mio compleanno, se mi salutaste sarebbe il top, 25 anni fa, però auguri. Auguri, non ti sei firmato, ma auguri per questi 25 anni. Ma la finanza sa il tuo nome, non ti preoccupare. No, e quindi... ve lo chiediamo, 800 24 00 24, secondo voi Virginia Raggi dovrebbe fare un passo indietro? Che ne pensate? Chiamateci, perché hanno cambiato il codice etico, etico, sì, di garanzia. E quindi ora un avviso di garanzia non vale più come prima, questo almeno se vogliamo riassumere vale così per il Movimento 5 Stelle, e poi insomma pende questa questione dell'Italicum. Però tu hai detto la politica si impone, a me sembra che la politica come si impone sempre... con queste notizie, ecco. Ecco, perché la politica è sempre lì fuori dalla sala d'attesa, come devo dire? Beh, sui giornali. Perché se vai a vedere tutta questa storia di delegare le leggi elettorali oramai al Parlamento irresponsabile, che è la Corte Costituzionale, dico irresponsabile perché ovviamente rispetto all'autonomia e all'indipendenza, ma per esempio, cari ascoltatori, non capisco perché sia coperto dal segreto la decisione della Corte Costituzionale. In grandi paesi come gli Stati Uniti e la Germania si pubblicano le dissenting opinion nelle camere di collegio, perché proprio perché le materie su cui si pronunciano le corti più elevate hanno un tale impatto sociale, politico, economico, che tutto sto segreto a me non... ai tempi del capisci, tempi della monarchia assoluta, lo capisco, sembrava tutelarne o costituzionale, meglio, serviva a tutelare questi primi organi dalle influenze improprie. Adesso diventa una specie di Parlamento irresponsabile, decidono tutto loro e la politica è fuori la porta, sono tutti lì a dire: noi prendiamo quello che dice la Corte, attendo, per carità, attendiamo. Fotocopia subito, ne facciamo fotocopia, quello riguarderà l'Italico, dovreste farne un'altra, non incostituzionale, ma si sa che in Italia non è facile. Però vogliamo cercare di capirlo, perché poi sono tutte questioni anche molto tecniche, il premio di maggioranza, il ballottaggio, proprio la legge elettorale di per sé è una questione molto tecnica. La domanda alla quale tutti gli italiani vorrebbero una risposta è: ma poi cosa vuol dire? Si voterà alla fine della legislatura nel 2018 o si voterà prima? Ecco, per esempio, partiamo da questa domanda che vogliamo girare a Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Sole 24 Ore del Corriere della Sera, ora il Corriere della Sera ancora. De Bortoli, buongiorno direttore, eccoci. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma gli italiani vogliono sapere questo, nessuno ha la sfera di cristallo, ma poi è quello che tutti si chiedono, insomma, che significa. La domanda è assolutamente legittima, insomma. La mia sensazione, ma qui andiamo a sensazioni che possono mutare di giorno in giorno, è che l'ipotesi di elezioni anticipate sia lontana, insomma, e anche con quello che sarà il verdetto della Corte Costituzionale nelle prossime ore, insomma, credo che ci vorrà un intervento del Parlamento, e le posizioni sono veramente distanti, quelle che dicevate voi prima, insomma. Qui si misura anche l'incapacità della politica di avere un terreno comune, insomma, per cui ci si aggrappa alla Corte Costituzionale, che diventa una sorta di Parlamento improprio. A questo punto di vista io non sono d'accordo con Oscar, io credo che non sia il caso di pubblicare delle dissenting opinion, perché noi dobbiamo comunque difendere l'imparzialità dei giudici costituzionali e metterli nella condizione, ovviamente, specialmente in un paese pieno di vendette. Cioè, tu dici li esporremmo a essere travolti dalle polemiche. A tutela, diciamo, della loro indipendenza e dell'applicazione, diciamo, di principi costituzionali in un paese che ha un problema, diciamo, di legalità gigantesco e soprattutto di effettiva applicazione della legge. Allora, speriamo che, naturalmente, le ipotesi sono quelle che circolano, che avete letto tutti, insomma. Io credo che poi non si possa non passare da un accordo, soprattutto tra Renzi e Berlusconi, insomma, e quindi di arrivare a qualcosa che è vicino ad un proporzionale corretto. Insomma, andare al voto con il risultato di quello che sarà la pronuncia della Corte crea delle asimmetrie tra Camera e Senato, che naturalmente giustamente lo stesso Mattarella ha notato. Non si andasse a votare, sì, sarebbe una sconfitta politica, un'altra per Renzi, direttore. Di fatto così è lui che punta soprattutto al voto anticipato. Però insomma, oggi Renzi è il segretario del PD, deve occuparsi dei sestini del proprio partito e ne ha di lavoro da fare, insomma, e deve dimostrare di essere uno statista consapevole, responsabile, che appoggia in tutto e per tutto il governo del PD, cioè che è il governo di Gentiloni, insomma. Quindi io mi aspetterei che ci fosse anche un aiuto tangibile a far sì che il governo affronti tutta una serie di questioni che vanno molto al di là della legge elettorale. L'altro aspetto è che non si faccia ancora l'errore di fare una legge elettorale che vale per il momento in cui viene fatta, un po' come l'Italico. Esatto. No, cioè il vestito di quel momento che serve al partito di maggioranza relativa per incassare il massimo del risultato. Infatti poi i sondaggi sono cambiati, quando il Movimento 5 Stelle, almeno dai sondaggi, veniva dato come primo partito, pare che l'Italicum non andasse più bene di colpo. Esatto, io vedo, cioè l'Italicum è stato votato anche con la fiducia da tutti, non vedo un coerente difensore dell'Italicum. Non lo vedo, insomma, cioè, è rimasto soltanto l'avvocato generale dello Stato. E, francamente, questo per la politica è una sconfitta. Ma tutti quelli che hanno votato l'Italicum, dove sono? Allora, qualcuno ci sarà stato convinto anche poi in dibattiti che abbiamo avuto che quella era una legge straordinaria che sarebbe stata poi replicata in altri paesi europei, insomma. Io temo che poi anche il Jobs Act rischi di avere lo stesso destino. Nessun padre. Insomma, c'è un problema di coerenza. E forse all'epoca c'è anche un problema che all'epoca forse le eccezioni di costituzionalità forse dovevano essere in qualche modo anche portate avanti dalla stessa Presidenza della Repubblica. Tra l'altro l'Avvocato Generale dello Stato in difesa del governo, Oscar, in rappresentanza del governo, ha detto con una tesi singolare, dice non si può giudicare un sistema, l'Italicum, che è vero è in vigore, ma non è mai stato provato e quindi non è mai stato testato in un'elezione. Quindi io devo ammettere che nella lettura, da mero appassionato della materia, per carità, che voglio dire, però da mero appassionato della materia e da cittadino sono rimasto abbastanza colpito da quella argomento, no? Cioè, infatti, scusa un secondo, naturalmente non voglio paragonare. Ognuno poi porta acqua al proprio mulino, insomma. No, non voglio paragonare, ma non c'è bisogno di vedere commesso un omicidio per sapere che bisogna evitare commettere gli omicidi. È assolutamente ridicola come argomentazione, insomma, perché la legge di fatto esiste, è stata approvata, come se fosse un limbo legislativo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, insomma, cioè fino a prova contraria. Insomma, è una visione, immagino che qualche fine palato giuridico potrà dire che è un orrore, ecco. Però insomma si sono aggrappati a tutta una serie di, insomma, la lettura, diciamo, di questa difesa è anche esemplificativa di un certo momento che stiamo vivendo, direi, insomma, ecco. Però la domanda più generale è anche al di là dell'aspetto giuridico, sì, perché comunica proprio un'istantanea che fotografa dissiparsi di tante cose, di tanta certezza, esatto. Ma io su questo proprio volevo sapere la tua impressione, perché tu hai, secondo me correttamente, messo insieme l'esempio della legge elettorale e hai fatto anche un riferimento al Jobs Act. In realtà sono alcuni capisaldi di tutta l'azione di governo energica di Renzi che sembra, a distanza di qualche settimana dall'avvio dell'esperienza di governo Gentiloni, trasmettano questa fotografia di un PD che o non c'era o è imbarazzato in maniera assoluta, ma non in componenti che criticavano quelle scelte, le componenti della minoranza interna e poi nel tempo anche di personaggi come Bersani e sempre di più di D'Alema, che l'ha sempre fatto. No, io sto parlando del corpo intermedio ma maggioritario degli eletti di quel partito, che è come se provassero una sensazione sgradevole di non volerne parlare di queste cose e di essere comunque molto disposti a cambiarla in concreto, senza perdersi tanto in chiacchiere. Che cos'è, secondo te? È una eredità che si rivela per quello che è, perché i giornali l'hanno molto sopravvalutata nel corso di quell'azione politica, oppure è semplicemente l'espressione del fatto che il PD si trova in una difficoltà assoluta, analoga a quella di altre forze, di grandi partiti europei, eccetera, eccetera? Ma intanto i giornali hanno sicuramente sopravvalutato questi 3 anni di Renzi, insomma, forse avrebbero dovuto esercitare una funzione critica maggiore che sarebbe andata a vantaggio della stessa azione politica di Renzi. Poi effettivamente, come dici tu, Oscar, c'è la sensazione che molti del PD sul versante renziano abbiano votato per disciplina o forse per paura, in maniera persino preterintenzionale, come se ci fosse stata una sorta di sospensione nella vita democratica del partito, cosa che io ritengo esagerata, per la verità. Però vedo tante persone che si sono forse, anche per con un certo entusiasmo, accodate, perché quello era il potere crescente, e che adesso si stanno riposizionando, cioè rifanno in senso opposto quel riposizionamento che avevano fatto nel momento in cui Bersani, perdendo di fatto le elezioni del 2013, non era più in grado di controllare nel partito e di formare il governo, che tutti, insomma, si sono poi indirizzati verso il potere crescente di Renzi, anche quelli che avevano lasciato segni inequivocabili su Twitter o in dichiarazioni sui giornali della loro opposizione. Dopodiché è sempre legittimo cambiare idea. De Bortoli, se il Vogliamanti ha certificato in un sondaggio che 8 italiani su 10 vogliono l'uomo forte, forse questo vale anche all'interno dei partiti, evidentemente. Seguono l'uomo forte del momento. Vale anche all'interno dei partiti, non dimenticando che l'Italicum dava un potere assoluto al segretario del partito di scegliersi i propri deputati e non i propri senatori, perché si pensava che il Senato sarebbe scomparso, ma li avrebbe scelti ovviamente in maniera indiretta, e si fece una legge di Taligun che valeva soltanto per la Camera, e anche questa sarebbe stata una ragione di riflessione. Se all'epoca noi avessimo così promosso una discussione più ampia e più critica, senza dividere tra coloro che volevano la crescita e la modernità e gli altri che erano ovviamente prigionieri del passato, insomma, probabilmente anche quell'aspetto di debolezza dell'Italia come sarebbe stato corretto. Per concludere, noi andiamo poi in pubblicità, ci sono gli ascoltatori, abbiamo lanciato anche il tema su Virginia Raggi, sindaco di Roma. Pare che ci sia stato un cambiamento di atteggiamento del Movimento 5 Stelle, oppure c'è coerenza, c'è la possibilità di cambiare anche come ha fatto il codice etico? Insomma, un'analisi su Virginia Raggi. Ma coerenza non ne vedo, francamente. Insomma, hanno giustamente cambiato il loro codice etico, con tutti i dubbi che questo comporta. Non è giusto che la Raggi, secondo me, si dimetta per un avviso di garanzia, come non è giusto che si dimetta chiunque, perché poi soprattutto per l'abuso di ufficio, che è talmente ampio, insomma, no? E quindi vanno valutate ovviamente la gravità degli atti. Certo, lei ha fatto un po' di pasticci, questo non toglie che sia la persona sbagliata nel posto sbagliato, insomma. Anzi, questo solleva tutta una serie di dubbi che il Movimento 5 Stelle non volesse, proprio perché si trovava a governare Roma, una figura così forte di riferimento che poi avrebbe cambiato i poteri all'interno dello stesso movimento. Quindi che andasse bene anche a loro avere una figura di oggettiva debolezza. Questo punto che lavori, che soprattutto venga giudicata sulle cose che fa. Per il momento piuttosto sono abbastanza poche. Questo poi lo staremo a vedere, la certificazione anche della classifica ultima del Sole 24 Ore, che ero al penultimo posto nell'indice di gradimento dei sindaci. Ne era una fotografia. Grazie a Ferruccio De Bortoli, davvero. Grazie, per essere stato con noi. Buongiorno a tutti. Dal Corriere della Sera. Andiamo un attimo in pubblicità, poi ci sono gli ascoltatori, c'è l'Abruzzo. Caro Oscar, mi scrivono e scrivono qua: guarda, stasera finirà Juventus-Milan 0-3, fine del ciclo della Juve. Ecco il Giannino 5 Stelle. Boh. Ringrazio Francesco. Sei la lunga mano di Grillo, sorrido perché va bene. Vabbè, dai. Va bene tutto, tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci, allora c'è Gianfrancesco che ci chiama da Roma. Roma. Lei ha votato Virginia Raggi, ce lo può dire? Tanto... Sì, ho votato Virginia Raggi tranquillamente. No, guardate, siccome apprezzo molto e stimo il vostro lavoro, sì, volevo solo provare a chiedervi se avete in mente un eletto 5 Stelle che si è dimesso per un avviso di garanzia. In realtà, cioè scusatemi, ma Nogarin l'avviso di garanzia lo ricevette e non si dimise. I deputati, diciamo, coinvolti nella vicenda delle firme siciliane hanno ricevuto l'avviso di garanzia e non sono né stati ancora, né si sono dimessi né sono stati espulsi. Il mitico Pizzarotti ha avuto dei grossi problemi perché l'avviso di garanzia lo ricevette, ma non lo disse. In realtà, mi permetto di precisarlo, sostanzialmente non c'era il codice etico prima, non c'era, cioè quello che è stato fatto non è stato cambiato, è stato creato. Cambiato rispetto ad alcune dichiarazioni di esponente del Movimento 5 Stelle, con un avviso di garanzia bisogna dimettersi rispetto, che ne so, a Ignazio Marino, cioè ci sono state, questa non è un'invenzione, si dimetta quando era indagato. Ci sono state, in questo si è cambiata linea, forse non si è cambiato il codice etico, questo effettivamente è stato creato, ma si è cambiata una linea che sembrava diversa, ecco, quando si trattava di avversari politici, o no, Gianfrancesco, me lo sogno? No, non è che lo sogna, il discorso è che secondo me su Marino ci sono state delle grosse polemiche, ma a me che per le scene sia ma che ne so, per esempio il ministro, l'ex ministro Federica Guidi, ricorda, neanche indagata, si dimetta, cioè non c'è una coerenza nelle dichiarazioni, ma di tutti, non del Movimento 5 Stelle, non c'è una linea precisa. Se lei mi fa riferimento a un discorso generale di attacco politico in relazione anche a vicende di una grave, di una grossa gravità, perché una cosa è, se voglio dire, se esce fuori una telefonata di quel tipo anche prima della, anche pensi a Lupi. Lupi, che cioè ci sono, ne ricordo per esempio che Federica Guidi è stata totalmente archiviata, Lupi non è stato nemmeno indagato, la Di Girolamo adesso è stata archiviata. Però questo è una, allora però non si può accusare solo i 5 Stelle di un giacobinismo che esiste in questo paese dal 92-93, quando sostanzialmente l'avviso di garanzia era diventato un marchio di infamia. Allora però bisognerebbe dirlo anche della Lega, bisognerebbe dirlo anche io facevo un discorso generale, Gianfrancesco, grazie, no, io facevo un discorso generale. Io adesso bisogna anche essere, adesso io vedo qua che c'è gente che dice che sono grillino, adesso si dice che noi stiamo attaccando grillino. Scusate, ve lo ricordate il caso di Rosa Capuozzo? È avvenuto o me lo sto inventando io? Rosa Capuozzo, sindaco, ma sindaca di quarto, è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle perché per la vicenda giudiziaria. Adesso non è che ce lo inventiamo a fini polemici, basta che non diciate con telefonate non è mai avvenuto prima, perché è due l'una, o fate propaganda voi o avete la memoria con qualche buco. Diciamo che una coerenza di tutti non c'è, ma di tutti, Io poi, ripeto, sono uno di quelli che ha detto pubblicamente, siccome questo codice di garanzia, meno male, questo è positivo, perché io sono un garantista, non da oggi, quindi lo considero molto positivo. Sì. Detto tutto questo, però, casi di espulsione per vicende giudiziarie ci sono state, e come? Ecco. Allora, prima degli ascoltatori ancora, vogliamo salutare il professor Leo Adamoli, geologo, responsabile della sezione geologia ambientale per la Società Geologica Italiana. Buongiorno, buongiorno Adamoli. Buongiorno. Perché lei ieri è stato evocato nella nostra trasmissione, forse non lo sa, forse... Me l'hanno riferito. L'ex sindaco di Farindola, intervenuto qui, ha detto ma basta con queste leggende che l'hotel sia stato costruito su vecchie frane, su vecchie valanghe, su detriti. Chiamate il professor Leo Adamoli, che è il massimo esperto della zona, e questo non è ben verificato. Tanto perché lei è così esperto di quella zona, professore? Ma diciamo che sono nato come geologo in quella zona perché il titolo della mia tesi di laurea era Geologia dei Monti di Farindola, e poi ho continuato a fare ricerche geologiche per tanti anni, quindi li conosce molto bene quei monti. Ci dica proprio in maniera chiara, se fosse chiamato anche dalla procura a dire una testimonianza, allora quell'hotel è costruito sui detriti di una vecchia valanga in un posto dove era sconsigliabile costruire? Ma guardi, se fossi chiamato da qualcuno, quindi a redigere una relazione geologica sulle pericolosità geologiche di quella zona, intanto andrei a consultare la cartografia esistente, alla quale bisogna fare sempre riferimento, ed è il piano di assetto idrogeologico della regione Abruzzo. Mm. E poi magari anche altre cartografie, sempre della regione Abruzzo, eccetera. Ecco, io generalmente vado a, come dire, a consultare, per esempio, la carta dell'Aquater, redatta dall'Aquater per conto della regione Abruzzo negli anni 90, negli anni 90. Ecco, vado a vedere in quella zona, e in quella zona i geomorfologi che hanno rilevato in quel periodo non hanno indicato canaloni di valanga proprio in quella zona. Non in quel, li hanno indicati, no. Non l'hanno indicato, lo indicano invece poco più a nord-est, nella zona a nord-ovest, mi scusi, nella zona Il Gravone, che è notissima quella zona come area dove periodicamente, quando sono le condizioni, si verificano valanghe molto importanti, mm-hmm. e poco più invece a sud-est, nella sottomonte San Vito, e anche lì c'è una sorta di canalone di valanghe che da Monte San Vito arriva fino a Fonte Canaluccia. Capisce, professor Adamoli, che ci sono tre versioni diverse su dove ci siano dei canaloni e dove ci sia più pericolo di valanghe. Ma la sua opinione? La mia opinione è che, ripeto, poi anche nelle altre carte del PAI naturalmente non vengono riportati questi canaloni di valanga, ma per quale motivo? E io avrei fatto la stessa cosa, perché praticamente è lì nell'ultimo mezzo secolo non si sono mai verificati fenomeni valanghivi. Ora è chiaro che è chiaro che le condizioni geomorfologiche ci sono, ma le condizioni geomorfologiche ci sono in tutti gli angoli della nostra montagna, in tutte le montagne italiane, certo. eccetera. No? Quindi quando legge sui giornali nel 1936 lì ci fu una valanga ed è stato costruito su quei detriti. Infatti ha detto negli ultimi 50 anni. Quei detriti che stanno lì è una semplice conoide alluvionale che si è formata pian piano nel tempo in migliaia di anni. Quella è una conoide detritica che si è formata nel corso degli anni, non va riferita a un fenomeno valanghivo, assolutamente, okay. assolutamente. Quella è una conoide inattiva che sta lì da tantissimo tempo e su quella conoide può essere benissimo costruita. Io voglio ricordare l'esempio di, può essere, che ne so, Courmayeur, per esempio, sta sopra una conoide alluvionale, no? Sulle Alpi, e così come in tantissime altre situazioni. Mm. Insomma, è chiaro che qui ci sono state condizioni molto particolari, condizioni imprevedibili, che è stato intanto le condizioni geomorfologiche, è chiaro che ci sono 800 metri di dislivello fra la zona di distacco e l'albergo. C'è stato un fenomeno di innevamento improvviso che ha portato a uno spessore di 3-4 metri, immagino, in coincidenza poi con scosse di terremoto. E quindi sono una sorta di combinazione micidiale. Praticamente. No, però è importante, se posso assumere bene, professor Adamoli, lei dice che non si può sottoscrivere il titolo che legge sui giornali: hotel costruito su detriti di una valanga. No, assolutamente no. Quella è una conoide detritica, conoide, diciamo. Conoide cosa significa? Ce lo spieghi in termini. Ma praticamente una conoide può essere semplicemente una conoide detritica e i singoli, diciamo, elementi detriti vengono giù per gravità, oppure anche per ruscellamento superficiale delle acque quando piove tanto, eccetera. Quindi, diciamo, si forma pian piano nel tempo, no? In queste ci sono tantissime. Per capirci, cari ascoltatori, tronco di colonna rovesciato per gravità dai declivi vanno verso il ballo i bassi detriti, esattamente. Questa è dal punto di vista geologico, sono elementi che ci sta spiegando. Certo, oggi poi si legge, per esempio, su Libero che era una zona agricola trasformata forse in edificabile grazie ad alcune parentele politiche. Queste però non sono questioni geologiche, ma questioni di vizio. Io frequento quella zona dall'età di 14 anni, e in quella zona ci sono, e lì c'era un rifugio del CAI di Pescara. Sì. E voglio dire, chi va in montagna, cioè, non costruisce un rifugio in una zona dove magari a memoria storica ci sono state importanti valanghe, insomma, non ripeto, qui ci sono state delle condizioni eccezionali, perché probabilmente, anzi quasi Chiaramente tutto questo andrà poi verificato quando non ci sarà più la neve, si va lì e si vede esattamente quello che è accaduto, perché per esempio io non escludo che ci possano essere state anche dei distacchi, dei fenomeni franosi, mi pare detriti, molto probabile, cioè, perché sennò non si spiegherà, però questo lo vedranno i tecnici, i periti, ha ragione lei. Detto questo, mi consente di aggiungere, adesso non vorrei che però i nostri ascoltatori che capiscono, vabbè, allora non è successo niente, al solito la stampa inventa tutto. Due punti di fondo, cioè che la carta, che l'aggiornamento della carta geologica sia bloccata, per esempio, con questi lavori pubblici, cari ascoltatori, è un dato di fatto, non è che se lo inventano i giornalisti, perché di fronte a una strage che avviene per eventi naturali imprevedibili, i giornalisti sono matti e vogliono costruire colpe umano. L'aggiornamento, per esempio, della valutazione dei rischi valanghivi e di slavine per tutto l'Appennino, quindi dal centro-sud, fermo da anni, anche quello è un fatto oggettivo. Il che non toglie, certo, che il tecnico che abbiamo sentito, che ringraziamo per il parere che ci ha dato, per come conosce da molti anni e ha studiato quell'area, può avere ragione benissimo. Detto questo, nel sistema della prevenzione dei rischi di un paese così esposto come il nostro, il ritardo, la pubblica amministrazione, di strumenti efficienti, cioè come, ecco, non vorrei che pensasse la gente che siamo noi a inventare, che siamo matti, perché, scusi, ma... No, no, comunque, professor Adamoli, noi la ringraziamo per averci spiegato, insomma, da esperto che ha studiato quelle montagne da 14 anni, da quando ha 14 anni è lì, e, insomma, in qualche modo anche quello che ci ha detto ieri il vice sindaco almeno è confortato dall'argomento, il geologo professor Adamoli che abbiamo sentito. C'è Paolo che ci chiama da Padova, vediamo se riusciamo a chiudere con lui. Paolo, buongiorno, torniamo buongiorno sulla politica. Due cose, uno, forza Milan, perché per me sempre, Milan, Juve, sempre. Milan o Milan Juve è sempre una comunque mitica notte di Manchester. Fatto. E quindi speriamo sì, quello. Vabbè, sogniamo, sì, va bene. Insomma, va bene. Sono un pezzo fondamentale dell'energia. Dopo, una cosa, per me la Raggi non deve dimettersi, perché quando è andata a Roma ha trovato quello che ha trovato, non può mandare a casa tutti e mettere dentro e fare assunzioni nuove, perché se lo permettono in Italia di fare questo. Terza cosa, ho una certezza e un dubbio. La certezza è quella che vivo nel paese più bello del mondo. Il dubbio mi sembra che questo paese sia amministrato, dico sembra, sia amministrato da un'associazione mafiosa legalizzata, dove vogliono perdere il potere per mangiare sempre soldi agli italiani. Va bene Paolo, insomma, due certezze, o no, meglio una certezza ieri, e un dubbio. Ieri c'è una questa notizia che al ritmo dei lavori pubblici italiani per avere le stesse chilometri di metro e di tram di Madrid, Roma avrebbe bisogno di 80 anni di lavori, Napoli di 65, Milano di 15, e dico anch'io sì, grazie ai partiti, tutti a piedi, ecco, grazie ai partiti, questo è l'Italia, è questa esatto, roba. Ma si potrebbe fare così, andiamo a piedi, che se non c'è di fare le metropolitane, tutti a piedi, la salute ne guadagna e via. C'era un premier che ha detto che andava a piedi a un santuario, l'hai visto tu? Ah, è vero, va bene. Dai, allora ci troviamo domani, fate i bravi, forza Milan, come ha detto Paolo da Padova. Bravo Paolo da Padova, domani.